gli occhi che ho troppa fame, che ho voglia di spaccare il mondo con queste mani, vincere il male. Hanno scavato il fondo fino a sanguinare ed ora questi segni mordono l'anima. Con queste mani ho inoculato il seme della sconfitta sotto pelle, sviluppo anticorpi adeguati per evitare che il domani ci colga impreparati alla caduta degli dei. Disdetta, con queste mani violo il cielo impugnando spade d'inchiostro, scalfendo tenaci scuri fatti di ignoranza. Confondo il bianco ed il nero nell'estasi dello sforzo, sorto ai funesti preludi della battaglia. Con queste mani ho cancellato i più dolci ricordi, ho messo in evidenza solo i dolori più forti, perché l'amaro in bocca dà la forza di reagire, ho troppa rabbia da smaltire, me lo leggi negli occhi. E anche se tutto questo adesso sembra perso, non ti arrendere, perché tu sei diverso, cosa sei disposto a perdere? E anche se tutto questo adesso sembra perso, non ti arrendere, ma c'è troppa rabbia dentro, te leggo un odio immenso dentro. Me lo leggi negli occhi che ho troppa fame, che ho voglia di spaccare il mondo con queste mani, annientare il male in gestazione dentro teste cavi in cui gira solo un disco in rotazione. L'odio, con queste mani entrare in paradiso, ma quella celeste è la scala diabolica di Cantor. Ogni mancanza riempie un vuoto palliativo, ma il rimedio è solo passeggero e non mi lascia a scampo. Ho rivincita alcuna, idoli ritirata, una persona adirata con l'idea accessoria della vendetta rapida, aspetto sogni di gloria, cambia accento alla fatica, sembra forza fatica. Con queste mani ho raccolto e seminato come le virato di perdenti, lotta per inerzia, ho dato atto ad ogni percezione, compio viaggio dentro i testi, così soffro della sindrome di Stendhal. E anche se tutto questo adesso sembra perso, non ti arrendere, perché tu sei diverso, cosa sei disposto a perdere? E anche se tutto questo adesso sembra perso, non ti arrendere, ma c'è troppa rabbia dentro, te leggo un odio immenso dentro. La mano aperta tra la carezza e lo schiaffo è un contrasto che strida una sorta di contrappasso. L'amore e l'odio sono iscritti sul mio palmo come tratti che si intersecano l'uno con l'altro. La mano chiusa e il pugno dato con violenza, oppure un'inconscia reazione di fronte alla sofferenza. È ambivalenza come la pace e la guerra, due mondi divisi ma in eterna compresenza. Non posso stare a guardare, sono riflessivo solo nell'istante attivo in cui sono conscio di essere impulsivo. Dopo rimorso, stare a giudicare chi non sa saltare. Ciò che è ovvio è scavare profondo con queste mani grosse come quelle di mio nonno, il cui ricordo sembra vivere dentro di me. Farò quadrare in infinito come Mondrian e ci si accorga che ogni via di fuga era nel sogno. E anche se tutto questo adesso sembra perso, non ti arrendere, perché tu sei diverso, cosa sei disposto a perdere? E anche se tutto questo adesso sembra perso, non ti arrendere, ma c'è troppa rabbia dentro, te leggo un odio immenso dentro.